Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia della storia. Oggi per la serie I faccia a faccia della storia vi proponiamo il faccia a faccia con Alberto Franceschini, curato come sempre da Sara Tardelli, fondatore delle Brigate Rosse, realizzato nell'88 quando Franceschini stava ancora scontando la sua pena in regime di libertà vigilata. Alberto Franceschini, emiliano di Reggio Emilia, famiglia comunista da sempre, iscritto giovanissimo al PC, prima del 68 però a più riprese lascia il partito e frequenta altri gruppi. Il Partito Comunista lo caccia definitivamente nel 69, nel 71 non ubbidisce la chiamata di leva, l'anno prima, nel 70, a Pecorile sull'Appennino reggiano fonda le BR, con lui dall'inizio c'erano Renato Curcio, Mara Cagol, Prospero Gallinari e altri. Lui è il primo brigatista latitante, autore e organizzatore del sequestro Sossi, arrestato il 9 settembre del 74 con Renato Curcio per una soffiata. Ha una calibro 7,65 in tasca e 6 documenti falsi, poi un'interminabile carovana di carceri normali e speciali. È processato a Torino in pieno sequestro Moro, condannato il 23 giugno 78 a 14 anni e mezzo per banda armata, rapine e sequestri. In carcere lo chiamano il Mega, cioè il Grande. È un capo storico, dà sicurezza agli altri. Il suo progetto è sempre la fuga, che fallisce sempre. La rivolta invece ha successo e a poco il problema delle carceri si impone. Il colpo di grazia lo danno lui e alcuni altri con uno sciopero della fame che fa notizie e muove il potere. L'articolo 90, il famigerato articolo delle carceri speciali, viene abrogato. È una vittoria. Ma dentro di lui si sta rompendo qualcosa. Non crede più alla rivoluzione, tantomeno alla violenza. Il Mega non c'è più. Doveva uscire nel 2022, invece è libero almeno dalle 7.30 del mattino alle 10.30 di sera. Lavora all'Arci, fa il giornalista. È uno dei 50 ex terroristi in semilibertà. Ha scritto un libro, Mara, Renato e io. Un libro scritto con cuore e ragione. Tutto quello che c'è scritto, è vero? No? Certo, è vero. Senta, ma perché si è deciso a scrivere questo libro? Ho sentito a un certo momento un mio bisogno fondamentale che era questo. Io quando ho capito che la lotta armata ormai aveva chiuso il suo ciclo, che non aveva più senso continuare, mi sono immediatamente illuso di poter essere una persona che diceva da questo momento io divento una persona qualunque. Ecco, ma per vivere come uno qualunque non sarebbe meglio forse il silenzio invece che avere di nuovo addosso gli spot dei media come in questo caso e come in altri? Infatti questa è l'illusione che ho coltivato all'inizio. Ho pensato, ecco, adesso Franceschini capostorico non esiste più, adesso c'è il detenuto Franceschini. Lei non ha mai ucciso nessuno, ma come capo fondatore delle Brigate Rosse si sente responsabile morale di tutti i loro delitti? Certo, mi sento responsabile morale e politico anche di tutto ciò che le Brigate Rosse hanno fatto. Il punto di rottura, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un episodio di Torino quando un nucleo di compagni sono entrati in una banca. La rapina era un pretesto, era dire pubblicamente che una compagna, Natalia Ligas, era una spia, cosa poi non vera. E per propagandare la notizia hanno ammazzato due guardie giurate. Cioè l'omicidio per fare notizia. Cioè lì ho visto proprio il punto estremo dove arrivava la nostra logica. E non l'aveva prevista questo rischio? Non credevo che si arrivasse a questo livello così, secondo me proprio disumano, di utilizzo della violenza. E a chi ha detto io non ci sto più, lì, fra i compagni? Io l'ho detto ai compagni che mi stavano più vicini, quelli che pensavo mi potessero capire di più. Ecco, lei però ha affermato tante volte che avete fondato le BR per ragioni ideali. Ed è questo il momento in cui ha capito per la prima volta che uccidere e trucidare per ragioni ideali poteva essere aberrante? Sì. Anche se, sì, questo ho capito, l'aberrazione dell'uccidere, di dove può portare anche una certa logica che può avere un punto di partenza ideale giusto. Per me la crisi grossa inizia nell'80 con i cassa integrati alla Fiat. Ecco, infatti lei dice che in realtà poi a sconfiggere il terrorismo è stato Agnelli, in qualche modo con la ristrutturazione della Fiat, perché? Sì, paradossalmente per noi che avevamo il mito della classe operaia, Mirafiori era la classe operaia italiana, vedere questa messa in cassa integrazione di 24.000 operai, quindi il dimezzare la classe operaia, vedere 40.000 capi che sfilare per Torino invece degli operai, per me è stato un segnale micidiale. Franceschini, lei realmente che cosa ha ripudiato? La violenza come metodo politico o l'idea stessa della rivoluzione? Ho ripudiato innanzitutto la violenza come metodo politico. Cioè mi sono convinto che la famosa frase che a scuola ci insegnavano sempre, quella che il fine giustifica i mezzi, non è una grande falsità. Ecco, ma chi l'ha aiutato di più in questo lungo percorso, se c'è qualche persona? Ma non so, non vorrei essere troppo orgoglioso, mi sono aiutato molto da solo. No, glielo chiedo perché lei ha detto che, per esempio, non so, Don Salvatore Bussu, cappellano del carcere di Badecarros, e Monsignor Melis, il vescovo di Nuoro, sono delle persone di infinita umanità che l'hanno aiutato. In che senso? Ho trovato in loro della cioè mi hanno aiutato a capire che dall'altra parte, da quella che per me era l'altra parte, c'era qualcosa. C'era gente con umanità, non c'erano solo dei modelli, delle tonache, delle divise. Ma non aveva mai, questo non aveva mai avuto il dubbio che ci fosse dall'altra parte qualcuno che fosse un essere umano? Ogni tanto mi veniva questo problema, che dall'altra parte c'era un uomo. Allora facevo dentro di me un'operazione di forzatura ideologica, politica, dire no, vabbè, l'aspetto umano non mi deve interessare, io sono un rivoluzionario e quindi devo pensare alla funzione di questa persona. Quindi l'umanità passava in secondo piano. Ho detto che oggi, più che nel passato, c'è un utilizzo politico del terrorismo. Che cosa voleva dire? Credo che noi siamo stati certamente un fenomeno politico però soprattutto un fenomeno ideologico, noi come persone che hanno fatto il terrorismo, che hanno fatto la lotta armata, cioè noi siamo stati dei pessimi politici, anche se avevamo l'ambizione di far politica, cioè da questo punto di vista la famosa frase di Lenin, l'estremismo malattia infantile del comunismo, direi che proprio l'estremismo è la malattia infantile della politica. Ecco, ma perché dice che c'è un utilizzo politico del terrorismo? Proprio perché noi siamo stati dei pessimi politici, c'è stato chi la politica la sapeva fare e ovviamente ha dato un senso diverso a quello che noi volevamo dare alle cose che facevamo. Lei ha anche detto che i terroristi latitanti potrebbero essere arrestati subito tutti se chi ha il potere lo volesse. Davvero lo pensa? Ma in fondo sì. Credo che se volessero. Ma chi sono e volessero? A un certo punto, quando hanno deciso dopo Sossi che dovevano prenderci, lo Stato ha messo in campo, non so chi, come, però non so, lo Stato ha messo in campo forze specializzate, i nuclei di speciali della Chiesa, in giro di 4 mesi ci hanno preso praticamente quasi tutti. Senta, ma quindi questi terroristi, questo terrorismo di oggi, secondo lei non ha nessun peso? Io credo, adesso dire questo probabilmente sarà anche provocatorio nei suoi confronti. Io credo che il terrorismo di oggi è fino in fondo figlio dei mass media. In che senso? Ed è in funzione dei mass media. In che senso? Nel senso che, proprio perché, per due motivi. Uno, perché non ha nessuna valenza sociale, non ha nessun valore sociale rispetto alla società. E ha un valore solo rispetto ai mass media, solo il fatto di fare notizia. Esiste facendo notizia. Franceschini, con altri 13 leader storici del terrorismo, lei ha recentemente scritto una lettera a Indro Montanelli per far chiarezza sull'operazione di disintossicazione del dibattito sugli anni 70. Perché proprio a Montanelli? Perché innanzitutto Montanelli è una persona, è una figura morale innanzitutto, cioè una persona al di sopra per certi aspetti delle parti politiche e anche delle parti istituzionali. Poi è una figura di una notevole correttezza anche da un punto di vista giornalistico, dell'informazione e della serietà culturale. Ecco, ma non è stato uno dei vostri bersagli preferiti? Certo, è stato, infatti deve essere stato il primo giornalista a cui è stato sparato, allora gli sparammo proprio per questa sua correttezza. Ecco, voi fate risalire un po' tutti i vostri guai alla legge sui pentiti. Io non credo che i pentiti abbiano avuto questa grande importanza nella sconfitta del terrorismo. Ecco, ma lo Stato che cosa poteva fare d'altro per battere il terrorismo se non una legge sui pentiti? È stato uno strumento sicuramente efficace. Certo, dal punto di vista dello Stato è servito. Senta Franceschini, ma parliamo di come nasce un terrorista. Innanzitutto, quando si è detto per la prima volta sono un terrorista? Beh, io sinceramente non l'ho mai detto, non mi sono mai sentito un terrorista. Non mi sono mai sentito. Forse mi sono sentito un terrorista quando mi sono sentito un terrorista o che potevo essere un terrorista, ho smesso di farlo. Ecco, ma lei crede davvero che ci fosse una continuità morale tra la lotta contro il nazismo e quella contro la Repubblica Italiana nata dalla Resistenza? Io credo che per certi aspetti, anche se aspetti estremamente minoritari, c'era. Può essere il mito che io, ma molta gente ma come forse me, forse è proprio quello il punto iniziale dell'inganno, questo equivoco, non crede? Certo, però era un mito tipico di quegli anni delle parti mie, ad esempio dell'Emilia. Senta, ma cosa le raccontavano questi vecchi partigiani? sfoghi di rancori, grossi rancori e storie, storie personali, storie di vita. Ma rancori contro chi? Beh, soprattutto contro il Partito Comunista, contro certi dirigenti del Partito Comunista, quelli che erano venuti dopo la destalinizzazione, dopo il 56. Senta, ma lei è figlio di comunisti, cresciuto nel Partito Comunista, l'abbiamo detto, l'ha confermato, ma nella sua formazione però, se non mi sbaglio, ci sono ex partigiani, Ho Chi Minh, i libri di Tupamaro, sudamericani. Mi sembra che il PC come tale c'entri poco nella sua formazione. Cioè un po' di confusione. Beh, probabilmente sì, perché vabbè, io non credo che uno che è comunista o del PC legga solo certi libri. Ma voglio dire, i punti di riferimento. I punti di riferimento per me fondamentali sono stati il marxismo, Gramsci. Quindi da questo punto di vista mi ritengo fino in fondo figlio della cultura del PC di degli anni 50, diciamo così. Qual era la rivoluzione che vi raccontavate? Non avevamo le idee molto chiare sulla rivoluzione, cioè noi pensavamo, la nostra idea era questa fondamentalmente. Sì, scusi, ma lei mentre mi dice questo si rende conto del prezzo che il paese ha pagato per queste sì, però se vuole c'era per noi una giustificazione morale nel fatto che noi eravamo i primi a pagare questo prezzo, quindi nella misura in cui tu sei il primo che dici io metto in campo la mia vita, tutti i miei affetti, tutto quanto, a questo punto ritieni... Quello vi legittimava secondo sì, voi? Forse un modo religioso, mistico di pensare alle cose, però ci dava una legittimazione etica almeno. Lei dice che Curcio era il vostro teorico, che lei e Mara, cioè Mara Cagol, lo tenevate come in un bozzolo, insomma lo proteggevate. Sono delle parole in qualche modo affettuose e anche tenere. Quindi agli inizi delle Brigate Rosse sono state più importanti l'amicizia oppure lo spirito di militanza? A leggere il libro sembra che sia una cosa di amici che si vogliono bene. Ma le due cose non erano separate, non erano assolutamente separate. Cioè se non c'era questo rapporto di fiducia reciproca e di amicizia non ci sarebbe nemmeno stato un rapporto di militanza e viceversa. Ecco, ma dopo la morte di Mara, lei ha pianto per ore, l'ha descritto nel suo libro, avrebbe voluto, come dice, essere caduto al suo posto per lasciarle la vita. Ma era innamorato di Mara Cagol? Sì, come l'innamoramento per una compagna per me era una compagna eccezionale, una delle più brave compagne. Ecco, ma che cosa ha rappresentato lei nella storia delle Brigate Rosse? Io credo che probabilmente le prime Brigate Rosse sono lei. Cioè? Cioè lei è stato un elemento anche psicologico fondamentale. Perché? Perché era, forse come tutte le donne, quando una donna decide di fare una cosa c'è una grossa decisione, cioè ha la certezza di andare avanti, lei era la più sicura e la più per certi aspetti motivata di noi. Ma senta, durante il periodo della clandestinità lei il problema dell'amore lo ha avuto o no? Sì, come problema, però il grande amore era la rivoluzione. Che superava tutto? Che superava tutto, a quell'amore lì tu il resto lo subordinavi. E quindi non era innamorato? Sì, per quello dico è difficile da definire, perché era l'amore per i compagni, per l'organizzazione, l'amore per... Io avevo amore anche per Renato, un grosso amore per Renato. Ecco, e che cosa risponde a chi sostiene che il 68 è stato il padre del terrorismo? È vero o no? No, definirlo il padre no, però è stato certamente... senza il 68, la rottura del 68, non si sarebbero liberate quelle energie che poi hanno portato a... Quindi un filo rosso lei lo vede in qualche modo? Sì, noi siamo anche figli del 68. Veniamo prima del 68, ma siamo anche figli del 68. Dopo la viabilità, continua il faccia a faccia con il fondatore delle Brigate Rosse, Alberto Franceschini. Mix 24. Il faccia a faccia della storia. A Mix 24 continua il faccia a faccia con Alberto Franceschini, fondatore delle Brigate Rosse. Franceschini, ecco, lei personalmente, l'abbiamo detto più volte, non ha mai ucciso nessuno, però la responsabilità morale dei delitti targati Brigate Rosse, l'ha detto, morale politica se la prende. Eppure nel suo libro lei dice che diventare rapinatore è stato l'ostacolo più difficile da superare nella vita di brigatista. Sì. Cioè i morti va bene e le rapine invece è un problema? Sì, perché da un punto di vista, diciamo, politico-rivoluzionario, come almeno concepivo io l'etica rivoluzionaria, è la cosa peggiore essere scambiato per un ladro. Cioè non volevo assolutamente essere ladro. Cioè l'assassino, un politico, ha una sua dignità, ma il ladro in politica non ha dignità per nessuno. Senta, e lei quante ne ha fatte di rapine? Tante, tantissime, più di quelle che mi ha fatto pagare la magistratura, certamente. Ah sì? Sì. Come mai? Non le ha confessate le altre? No, perché non credo che il problema sia confessato, credo di aver già pagato realmente. Senta, per ma due rapine mi hanno dato 12 anni. Che effetto le ha fatto? Che effetto le faceva? Per uno che aveva questa tensione etica, in concreto essere un ladro. Infatti era un effetto non piccolo, io nascondevo la cosa, cioè speravo che non mi prendessero mai su una rapina, infatti non mi hanno mai preso su una rapina. E infatti il problema più grosso che noi avevamo era, infatti nel 72 cominciammo subito a dire anche pubblicamente che l'esproprio era quello che nella rapina noi la chiamavamo esproprio, era un'attività rivoluzionaria. Senta, ma era difficile o facile fare queste rapine? All'inizio è difficile, ma poi è facile. Era facile, adesso credo, cioè, che sia difficilissimo. All'inizio era facile, poi era facile perché? Perché vabbè, il problema innanzitutto era un problema di rapporto psicologico tra te e gli altri. Una volta, ed era come io spiego nel libro, era una specie di rito che tu dovevi imparare, una recita di parti. Una volta che tu avevi imparato questo meccanismo, questo rito, diventava facile, forse per certi aspetti divertente. Divertente perché? Perché dava, almeno a me personalmente, dava una sensazione di potere. Ma si rende conto che è tremendo quello che dice? Tremendo, certo. Senta, ma lei però è arrivato a accettare l'idea di essere lei a uccidere materialmente, lo dice a proposito del giudice Sossi, quando dice che se fosse stato necessario l'avrebbe fatto. No, lo dico anche di più, che io, mi sembra che nel libro lo dico, io scelsi, a un certo punto dissi agli altri compagni, se c'è da ammazzarlo vorrei ammazzarlo io. E perché? Perché con Luce avevo stabilito, c'era il famoso discorso della sindrome di Stoccolma, il meccanismo funziona anche all'inverso, cioè avevo un rapporto di fiducia, io con lui avevo cominciato a costruire un rapporto di amicizia. E allora volevo fare, per quello che quando dicevo prima la mia dote, che può essere anche il mio difetto, volevo fare su di me anche questa estrema verifica, vedere quanto la politica riusciva su di me a forzare i miei aspetti umani. Cioè, è mostruoso quello che le sto dicendo, lo so, però penso che siano dei meccanismi profondi. E questo profondi. È il cadavere che vuole mangiare, insomma. Esatto, però penso che anche su questo, non credo che la gente normale sia così diversa da questi, probabilmente non arriva a fare certe cose, ma le sogna, le vive, nelle parole, quante a parole, quante persone lei probabilmente avrà detto lo vorrei ammazzare o morisse quello. Beh, molto diverso, no? Certo, no. Infatti, tanto è vero che chi poi ammazza va a finire in galera, però da un punto di vista etico-psicologico non so quanto sia così diverso. Ecco, ma perché non fu necessario, per usare la sua terminologia, uccidere Sossi? Anche lì ci ho sempre pensato quanto ci sia stato dentro di me di forzatura sulla politica per non arrivare al punto di doverlo ammazzare e quanto invece da un punto di vista politico era giusto liberarlo. Cioè non ci capiva più niente neanche lì? Era confuso. Franceschini, senta, ma a tradirvi per primo fu Girotto, il frate Mitra, che in un mese attraverso Lasagna, Levati, arriva a lei e a Curcio e poi vi fa arrestare. Quindi non eravate poi così impenetrabili, non ci voleva mica molto. E questo è il discorso che dicevo, che anche ora secondo me se lo Stato vuole, è solo una decisione di mettere in campo le forze adeguate. Ecco, ma prima di cadere nella trappola di frate Mitra, voi non vi eravate in qualche modo posti il problema delle possibilità di tradimento? Certo, ce l'avevamo posto il problema, tant'è vero che rispetto... Come vi tutelavate? Ma il fatto è che noi ci davamo una serie di regole continuamente, noi infatti abbiamo, non so, tra le nostre documentazioni ci sono regolamenti di tutti i tipi da rispettare, poi di fatto poi nella pratica andavamo a risolvere i problemi concreti, immediati, con le esigenze che avevamo quei giorni, nell'immediatezza, per cui le regole tante volte ce le scordavamo. E quindi era facile infiltrarvi? Quindi era abbastanza facile. E lei pensa che siano entrati di tutti i tipi? Non lo so, questo sinceramente non glielo so dire. Non ha idea. E frate Mitra, chi è che lo voleva e chi no? Ma frate Mitra, sostanzialmente chi lo voleva era soprattutto Renato, perché credo che era innamorato un po' del personaggio, di quello che lui rappresentava e come si era presentato come personaggio. Lei dice però che Mario Moretti era entusiasta di... Entusiastico, per me il parere di Mario è stato decisivo, perché Mario ritenevo che Renato era uno che si entusiasmava moltissimo rispetto a certe persone, quindi non era molto affidabile sui giudizi sulle persone. Mario invece era una persona su questo molto più equilibrata. E come lo giudica Mario Moretti? Da che punto di vista? Dal punto di vista complessivo, umano e politico. Cioè, una persona che ha messo la sua vita dentro un progetto sbagliato, ma ci ha messo la sua vita. E umanamente? Umanamente è un carattere molto diverso dal mio. In che cosa? Cioè, molto più duro di me, molto ostico rispetto a certi ai problemi da affrontare, molto forse più burocratico nell'affrontare le cose. Senta, ma è vero che lui sapeva che vi avrebbero preso a Pinerolo ma non volle o non poté avvisarvi? Non lo so, questo è un interrogativo che mi sono sempre tenuto, cioè che ho sempre avuto. Ma ce l'ha o no questo interrogativo? Cioè, lui avrebbe potuto, probabilmente avrebbe potuto avvisarci, però per una serie di circostanze non è riuscito ad avvisarci. E lei ci crede? No? Sì e no. Cioè il dubbio sul fatto che volesse farlo le è rimasto? Il dubbio mi è rimasto. E se non e perché secondo lei? Perché in che senso? Perché se non l'ha fatto, quale potrebbe essere la ragione? Non lo so, non lo so. Qui il discorso diventerebbe troppo complicato. Cioè? Perché è complicato? Complicato perché sarebbe un discorso che potrebbe rischiare di essere dietrologico, come si dice. E io non voglio fare dietrologia. Solo fatti? Solo fatti. E prove? E prove. Senta, a Porto Azzurro lei ha saputo del sequestro Moro e nel libro commenta: non parliamo perché non sappiamo se essere felici o spaventati. Ma spaventati perché, se voi pensavate che Moro era il cuore dello Stato che volevate colpire? Proprio per quello, perché quando arrivi troppo in alto metti in moto un meccanismo che ti sfugge, non sai bene dove va a finire. Quindi... Ma lei quando seppe del sequestro Moro si sentiva ancora parte integrante delle Brigate Rosse, certo, o no? Fino in fondo parte integrante. Fino in fondo? Fino in fondo. E l'ultimo tentativo di salvare Moro fu quello fatto da Franca Rame, no? Che viene in carcere da voi, vi chiede la liberazione di Moro. Ma lei dice è stato un tentativo disperato, in che senso? Disperato perché ormai la situazione era tale che credo che non ci fosse più nulla da fare. Cioè, secondo me il punto di svolta... E lì andrebbe veramente analizzato, è il volantino famoso del Lago della Duchessa, volantino che non è stato fatto da noi, chiaramente, non so da chi è stato fatto, e lì, secondo me, Moro viene ammazzato realmente, cioè lì viene perché? Costruito, io mi ricordo come vissi la sensazione in quel giorno quando la televisione mandava in diretta questi messaggi, il lago gelato, tutte queste alla ricerca di questo cadavere sotto questo lago, eccetera. Lì secondo me proprio nell'immaginario collettivo di tutti è stato vissuto proprio morto. A chi l'ha fatto secondo lei quel non lo so, dicono i servizi segreti, non so cosa voglia dire, perché poi servizio segreto è una parola che ormai comprende tutto nessuno, certamente non i compagni. Franceschini, senta, quel giorno, il 9 maggio, giorno del ritrovamento del cadavere, poi, la sua reazione è stata, lo dice lei, che se ne vadano tutti al diavolo, adesso finisce veramente che ci ammazzano. Cioè la paura aveva avuto il sopravvento sulla causa allora? Immediatamente sì. Ma perché lei era favorevole o contrario all'uccisione di Moro? Credo che al punto in cui si era arrivato, cioè io da un punto di vista qui vorrei essere molto onesto, cioè non, in quel periodo lì, come dicevo, la politica era al primo posto, non c'era un aspetto umano, anche se l'aspetto umano poi dentro di me era un travaglio grossissimo comunque. Da un punto di vista politico ritenevo un errore arrivare ad ammazzare Moro, però al punto in cui si era probabilmente non c'era altra soluzione. Quindi, cioè perché? Chi diceva che voleva trattare in realtà poi non trattava. E dall'altra parte c'era un muro di gomma, il famoso partito della fermezza, che faceva dei discorsi vaghissimi, eccetera. Poi quindi lei dice era una situazione senza via inestricabile. Inestricabile. Ecco, e in cui siamo rimasti catturati tutti, penso. Ecco, ma lei una cosa da dire a tutte le vittime del terrorismo, ce l'ha? Ce l'ho tante cose da dire. Ne dica qualcuno. Non credo che credo che il rapporto debba essere soprattutto un rapporto privato. Non può essere un fatto di spettacolo, un fatto così grave e complicato come il rapporto tra chi ha ammazzato e chi ha subito la morte. E cioè? Cosa proporrebbe? Non lo so, dico, è un problema di rapporto mio con queste persone. E ce le ha questo rapporto? Lei? Ce l'ho, c'ho anche questi rapporti. Senta, le faccio un'ultima domanda. Nell'introduzione al libro suo e di Renato Curcio, Gocce di sole nella città degli spettri, c'è scritto: siamo stati giocati. Ecco, Franceschini, da chi? Qui infatti lì è il momento in cui questo, infatti questa introduzione è del maggio dell'82 ed è il punto in cui già entravano i dubbi in me e anche in Renato. Lì immediatamente noi abbiamo questa sensazione di essere stati giocati noi diciamo dai fantasmi, infatti questa è la sensazione immediata, giocati dai fantasmi del passato, dell'ideologia, del marxismo, della classe operaia e forse giocati anche da persone più concrete. Mix 24, la storia. Io l'ho conosciuto che avevo credo 9 anni, perché Volare me lo ricordo poco, ma Ciao ciao bambina, e io avevo 9 anni appena compiuti quando lui la cantò, credevo fosse dedicata a me. Ciao ciao bambina. Era la persona più celebre d'Italia, poi quando è andato in America è diventata la persona più celebre in America pure. Per me è stato il più grande inventore di canzoni del Novecento, seguito successivamente da Lucio Battisti, quelli che hanno rivoluzionato il modo di scrivere le canzoni, poi il resto sono bravissimi. Mimmo era uomo e artista messo insieme. Aveva questa forza prorompente, fisica. Per me dopo la malattia era come vedere questo re della foresta ferito. C'era questa lenta, profondissima continuità fra la malattia e la salute, fra le amarezze dovute all'organizzazione mondana, diciamo, della religione della musica, della religiosità, del canto. Un interprete, un autore, un cantante, un attore. Oggi a Mix 24 raccontiamo la storia di un inimitabile protagonista della scena italiana e internazionale, Domenico Modugno. Classe 1928, generoso, sorprendente, sfacciato, trascinante, Modugno ha avuto una vita piena e avventurosa. E quando la malattia lo ha aggredito all'improvviso non si è lasciato piegare e l'ha trasformata in una nuova sfida da affrontare e da vincere. Ma la sua più grande vittoria, quello che lo ha consacrato per sempre, del 31 gennaio del 58 al Festival di Sanremo. La canzone si chiama Nel blu dipinto di blu, ma per tutti è Volare. Così il ricordo degli amici Renzo Arbore, Adriano Ragozzini e della moglie Franca Gandolfi. Quando nacque era una canzone assolutamente rivoluzionaria. Un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Io mi ricordo che un giornale, un fotocalco di politico di destra, simpatizzante di destra, stigmatizzò questa canzone ancora prima di sentirla, scrivendone i versi, dicendo: ma pensate che questi giovani di oggi che porcherie che fanno, penso che un sogno così non ritorni mai più, mi dipingevo la faccia, ma che significa? Noi giovani di allora ci entusiasmammo. Naturalmente i nostri padri si aspettavano l'acuto finale e che non venne. È una canzone, non si sa che cosa sia, è una canzone magica, ha una magia interna. È stato tutto l'inizio dei suoi show, cominciavano con Volare e finivano con Volare. Io inutilmente gli dicevo: non iniziare Mimmo con Volare, teniamocelo dopo. Cioè, no, chi mena per primo mena due volte. E cantava Volare all'inizio, iniziava lo spettacolo, Volare, così. Volare. Le canzoni certe volte hanno successo soltanto per la musica, altrimenti non si spiegherebbe perché certe canzoni futili, no? Certe canzoni proprio leggerissime rimangono dentro l'orecchio lo stesso e sono piacevoli. Altre volte proprio per l'idea delle parole, perché le parole, l'idea di Volare, che di Migliacci, del blu dipinto di blu, lui un giorno mi ha detto: Migliacci non faceva canzoni, eravamo amici così, ci siamo incontrati a Roma, volevamo fare il cinema insieme. E così un giorno gli ho detto: perché non pensi a fare le parole? Dice: ma io le parole non ho mai fatte, una tecnica, non lo so, non è come la poesia, perché la poesia ha una musica a sé, insomma, una cosa. Insomma, un giorno mi ha detto: io avevo l'idea di fare una canzone di uno che si dipinge di blu, tutto quanto di blu, e se ne va nel cielo per confondersi col cielo. E questa è un'idea. Se Migliacci non mi avesse detto questo, non sarebbe nata a Volare. Nel blu dipinto di blu. Avete sentito le parole di Domenico Modugno, una canzone rivoluzionaria, un modo di cantare rivoluzionario per quello che diventerà la canzone italiana ancora oggi più eseguita nel mondo. In America, nel blu dipinto di blu, vince 2 Grammy, l'equivalente degli Oscar della musica, e consacra questo giovane ragazzo italiano fino a quel momento assolutamente sconosciuto. È un successo inatteso e straordinario per un ragazzo venuto dal sud e venuto dal nulla. Sentiamolo ancora. Facevo l'ultimo anno di ragioneria. Allora, quando ho capito che per mio padre era importantissimo io diventassi ragioniere, che mi impiegassi a uno stipendio fisso al mese per tutta la vita, quando ho capito che era, cioè, che era una cosa definitiva, dico, o diventare ragioniere o scegliere la libertà. E così un giorno, all'insaputa di tutti, oddio, mia madre lo sapeva, ma mio padre non sapeva niente. E così sono partito. E dove è andato? Sono andato a Torino, sono andato alla città più lontana da San Pietro Vernodi, perché voglio andare al nord, al più nord possibile. E cosa faceva lei? Niente, ho fatto il cameriere. Poi ho scoperto che a Torino il cinema non si faceva e non si cantava neanche a Torino. Sì, è una bella città così, ma insomma per trovare una spinta, per farsi conoscere, non era una città. Poi faceva freddo e dove fa freddo bisogna scappare via. E dove è andato? E sono andato a Roma, poi ho fatto il concorso al centro sperimentale. L'ho vinto, ho risolto un problema grossissimo, perché mi davano 50.000 lire al mese di borsa di studio e più un pasto gratis al giorno. La sera andavo in via Margutta a cantare in un altro ristorante dove mi davano 1.000 lire al giorno e un pasto gratis al giorno, e quindi ero... Aveva risolto. Da quel momento ho risolto il mio problema. Avete sentito Domenico Modugno? Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24 con la storia di Domenico Modugno. È l'inverno del 1950. Domenico arriva a Roma, fa l'esame come allievo al centro sperimentale, così il ricordo della moglie Franca Gandolfi e dell'amico Riccardo Pazzaglia. E lui voleva fare l'attore e faceva l'attore, io pure volevo fare l'attrice, facevo l'attrice. Eravamo due del centro sperimentale, tutte e due. Siamo andati lì perché Fregene all'epoca andavano tutti divi, no? Tutti cinematografari, così. Eravamo in attesa che qualcuno ci scoprisse. Era una seconda via Veneto. Noi eravamo sempre felici, con pochissimi soldi facevamo la nostra Roma by night a piedi. E pochissimi soldi, ma eravamo sereni, si viveva la giornata, oggi c'erano, domani non ci sono i soldi, non ci facevamo problema. Non c'erano i soldi per pagarsi la macchina, quando arrivò la macchina si fermava. Oppure si andava da mia mamma: mamma, che ci dai qualche cosa, non abbiamo i soldi manco per la benzina. Col cinema non si andava avanti, allora noi, pensando di risolvere in qualche modo, ricorremmo alle canzoni e quindi cominciamo a scrivere insieme canzoni. Senza timone, cala porta dopo tu. Nel 1956 il debutto al Festival di Sanremo. L'anno dopo Modugno canta al Festival di Napoli. Così lo ricordano gli amici Renzo Arbore e Massimo Ranieri. Io l'ho incontrato in un locale a Piazza Medeo a Napoli, un locale dove io mi trattenevo, dove suonacchiavo anche, eccetera. Lui capitò una sera e io gli dissi: sono un tuo fervente ammiratore, canto le tue canzoni. E gli cantai una canzone che lui manco quasi si ricordava, si chiamava Mese e Settembre. Pure quest'autunno è venuto, cade ne foglie malate. È una bellissima canzone di quelle rimaste ignorate. E poi gli dissi che una delle mie canzoni preferite del suo repertorio era Nessuno può sapere, che è una canzone napoletana bellissima, scritta con Riccardo Pazzaglia. Nessuno può sapere, nessuno, perché chi sta abbracciato a testa sola. Io ovviamente andavo al Politeama, dove si svolgeva il Festival di Napoli, abitando lì vicino, a pochi passi, andavo al Politeama a chiedere gli autografi, ovviamente. Solo che per me lui all'epoca era già il mio idolo, insomma, perché già sentivo le sue performance come qualcosa di straordinario, e mi sono messo proprio dietro di lui, e proprio come una specie di zecca cavallina, come suol dirsi, gli cantavo, perché avevo già sentito le prove. Tu sei una cosa grande per me, Una cosa che mi fa innamorare. Sentiva, faceva proprio così, mo' di zanzare. Una cosa, fra... ah, ho capito, hai una bella voce, dopo ne parliamo. Proprio infastidito da questa cosa, carinamente però. Ah, ho capito, oggi capite che c'hai una bella voce, che cosa posso fare per te? Dico, no maestro, volevo solo farmi sentire, mi fate un autografo. E da quel giorno poi... Tu sei una cosa grande per me. Io ho sempre creduto che lui fosse napoletano. Quando mi hanno detto che non era napoletano sono rimasto un po' male, devo dire. Perché quando mi guarda così. Io sono pugliese proprio di 7 generazioni. Mio nonno e mio bisnonno, 7 generazioni pugliese. Però io vivo in un paese, cioè sono nato in un paese che si chiama Polignano a Mare, dove parlano un dialetto incredibile, il barese, che è un dialetto... È simpatico, però insomma, per fare un esempio, no? Per dire le fave con la cicoria, dicono i fave piccimi tu quei. C'è una frase che dice, per esempio, Kakir Kakurka è venuto Kaduka, ma proprio tu stai tu fatto. Che ha capito lei? Nulla. Niente, e sembra arabo, no? Eppure invece è italiano, insomma, è italiano, è un dialetto italiano. Mezza la strada amfosa, c'è sempre di taddio. La penata via te fece partì. Mio Mamadugno ha scritto Lazzarella a Chiesa di Gesù, ha scritto Io mamma te tu, e poi ha scritto queste canzoni che vi dicevano, ha scritto Sole, sole, sole, ride per casa, trase, trase. E sole, sole, sole, ride per casa, trase, trase. Sono canzoni che da bambino ascoltavo per radio e mi divertivano. Io mamma detto, oh, pro caffè, ah, che bello caffè. Solo a Napoli sanno fa, è straordinaria, un'ironia. Che tu dici, solo un napoletano può leggere Napoli così. Il caffè, l'importanza del caffè, la filosofia del caffè, la storia del caffè, il pensiero del caffè, la giornata che gira intorno al caffè. E solo un napoletano, solo un Marotta poteva, no, un Rea potevano scrivere queste cose. Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa, è una vera specialità. Ah, che bello, quella è proprio, sì, ma è una citazione, nella si fa, De André l'ha fatta volutamente, sia ispirandosi al caffè, sia a qualche altra canzone napoletana, Dorafè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta che c'è c'è nella compagna di... Ma sì, sicuramente, sì, voglio dire sicuramente, questa è una mia ipotesi, ovviamente, una mia opinione personalissima. Io credo che sicuramente il nostro Fabrizio si è un po' sicuramente avvicinato a Mimmo per un caffè suo. Di Don Raffaè. Ero convinto che fosse, se non napoletano, siciliano addirittura. Per queste cose, Lupisce Spada, questa meravigliosa favola, come la racconta lui, la Giulietta e Romeo del mare. Te picchiara la femminetta, gitto gitto un cialluco, e chiancia di doluri, ai ai ai ai ai. Cercavano, siccome Sinatra è siciliano, cercavano uno che cantasse in siciliano una canzone in omaggio di Frank Sinatra. Pensa alla fortuna, l'unico che cantava siciliano in quel momento ero io, perché avevo fatto un'audizione alla radio e mi conosceva. Ho cantato per Frank Sinatra, e qui non finisce la fortuna, cioè, ho cantato per Frank Sinatra, si chiamava La Ninna Nanna, e l'ha finito lì. Invece la fortuna vuole che Frank Sinatra, chissà perché, proprio chissà perché poi è sparito, non si è fatto vivo. Dopo la canzone si è interessata, qualcuno dice, ma quella canzone che ha cantato quel suonatore con la chitarra, di chi è? La vorrei, perché la vorrei cantare. Questo mi sembra un fatto eccezionale, infatti tutti quanti mi hanno telefonato a casa, dice, guarda che c'è Frank Sinatra che vuole cantare questa canzone. Allora sono andato da uno per farmi scrivere la canzone, perché non sapevo la musica, avanti e indietro, finalmente ho portato questa canzone, e Frank Sinatra invece era partito, della canzone se ne era dimenticato, dice, poi dice, me la manderà a Londra, insomma non l'ho visto più e la canzone non l'ha cantata più. Però questo fatto, che Frank Sinatra si interessasse a questa canzone di Modugno, chissà, lui l'avrà fatto proprio per dire che mi hanno fatto questo omaggio, diciamo che è una bella canzone, forse non gli piaceva neanche, però questo fatto ha smosso un ambiente ambiente di musicisti, un ambiente della radio, cioè, se una canzone di questo piccolo cantantino in siciliano è piaciuta a Frank Sinatra, vuol dire che questo c'ha altre canzoni, vuol dire che sono importanti, insomma, queste canzoni. Avete sentito Modugno, ma quel cantantino con la chitarra, come si definisce lui, è ormai un idolo della canzone, è un cantastorie moderno, un istrione che domina il palcoscenico e che instaura con il pubblico un rapporto magico mai visto prima. Nel 59, un anno dopo Volare, Modugno torna a Sanremo. È un nuovo trionfo con la canzone Piove. Per tutti però diventerà Ciao, ciao bambina. Così racconto la moglie Franco Gandolfi e l'amico Renzo Arbore. Ciao, ciao bambina è nata in America, a Pittsburgh, alla stazione di Pittsburgh, e lui ha visto una ragazza che piangeva mentre questo treno andava via. E allora dice, facciamo una canzone, ha detto a Franco, facciamo ciao ciao bambina. Anzi, prima aveva detto ciao ciao my lady. Ciao ciao my lady, è nata come ciao ciao my lady. Ciao ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò. Come una fiaba, l'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Adesso canto Ciao Ciao Bambino, che è una delle mie canzoni della memoria. È una canzone che mi intenerisce moltissimo, che io canto mettendoci il sentimento, perché voglio dimostrare che certe canzoni possono anche essere veramente piccole, come Ciao Ciao Bambina, scritta da Modugno Condino Verde. Sono poche note, però se sgorgano, la parola è antica ma è quella giusta, sgorgano direttamente dal cuore, dall'ispirazione, sono dei capolavori e sono e diventano le canzoni sempre verdi, quelle della memoria. Note che sgorgano dal cuore, che diventano canzoni della memoria collettiva. Ma a Modugno non basta, per lui non è mai abbastanza, perché la vita va aggredita e vissuta fino in fondo. Nel 60 Modugno tenta l'impossibile, vincere per la terza volta consecutiva il Festival di Sanremo. In coppia con Modugno c'è Teddy Reno, la canzone è Libero, scritta ancora da Franco Migliacci, che si dice ispirata alla vera storia di un carcerato. Così raccontano l'amico Massimo Ranieri e il manager Adriano Ragozzini. Libero, voglio andare bene. Ecco, una cosa mi ricordo. Lui mi disse una volta, ricordati una cosa, prima di entrare in scena o quando entri in scena, ci vuole forza, forza, forza. E non dimenticare mai di aggredire il pubblico. E lui era un maestro in questo. Lui entrava, subito ti conquistava, ti lasciava così, non avevi tempo di dire ma la giacca non mi piace, no, perché si dice ma che strano, com'è vestito stasera quel cantante, lui non ti dava la pillola per dire una cosa del genere, ti aggrediva con questa sua straordinaria simpatia, forza, maestria, e su questo lui è stato un maestro sicuramente per molti di noi, per chi come me lo ha guardato, se l'è studiato, me lo son bevuto Mimmo, proprio per imparare come lui emetteva i fiati, come usava il diaframma, come muoveva un braccio, una gamba. Domenico Modugno non è stato assolutamente un personaggio nel suo tempo, perché lui ha anticipato sempre i tempi. Quando ha iniziato a comporre, in un periodo che le canzoni erano sempre, i cui testi erano sempre cuore, che fa rima con amore, lui scrisse le più belle canzoni rivoluzionarie, non dell'epoca, perché canzoni come quelle che lui fece prima del 58 sono canzoni che oggi, se le andiamo a rileggere, sono di un'attualità meravigliosa, sono di un'attualità clamorosa, quindi lui ha sempre anticipato i tempi. Lui non è stato un personaggio del suo tempo legato all'epoca, cioè, lui è stato sempre avveniristico, sempre in tutto, era sempre avanti a tutto e a tutti. Mix 24, la storia. Bisogna dire una cosa quando si parla di Mimmo Modugno, che lui è stato un inventore di canzoni, non un interprete o un cantautore, cioè lui ha inventato un genere. Bentornati a Mix24, un inventore. Così Renzo Arbore definisce Domenico Modugno e per lui è un trionfo continuo. Nel 62 torna a vincere a Sanremo con Addio Addio. 2 anni dopo trionfa al Festival di Napoli, poi ancora a Sanremo. Ma proprio Sanremo sta per riservargli anche una delusione cocente, è il 1968. Così il ricordo del suo manager Adriano Ragozzini e dell'amico Renzo Arbore. Io ho sentito Mimmo dire che Arbore era stato quello per il quale non gli avevano fatto entrare meraviglioso al festival. E infatti lui me l'ha rinfacciato, io ogni volta a spiegare, me l'ha rinfacciato tante volte. Arbore gli disse che non era vero, che era stata la commissione, perché l'anno prima c'era stata la scomparsa di Luigi Tenco, quindi Meraviglioso era una canzone con un testo particolare che comunque avrebbe potuto far ripensare a Tenco e alla sua tragedia. È vero, credetemi, è accaduto. Di notte su di un ponte guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così. Il suicidio di Tenco aveva colpito tutti noi ragazzi, diciamo, dell'era beat. E quando l'anno successivo io ero nella commissione di Sanremo e presieduta da Carlo Sabina, che è direttore d'orchestra, con alcuni giornalisti importanti, eccetera, arrivò questa canzone di Modugno e Pazzaglia, già mio maestro e amico. E noi fummo molto imbarazzati perché questa canzone smentiva, questa canzone condannava il suicidio di Tenco, perché era un inno alla vita, peraltro bellissimo, meraviglioso, ma era, sembrava addirittura polemica nei confronti di una persona che si era tolta la vita per una canzonetta. E quindi fummo veramente molto imbarazzati. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso. Naturalmente meraviglioso. I colleghi cominciano a dire Arbore, quell'altro, eccetera, eccetera. Poi io gliel'ho chiarito tante volte e spero che adesso lo abbia accertato in qualche maniera. Io penso sempre che la nascita di una canzone è un fatto misterioso, proprio come, non so, è come la miniera, no? Come il rabdomante che va a cercare l'acqua o un'altra cosa, o il cercatore d'oro che va lì sicuro di trovare qualche cosa e poi non la trova. Insomma, la canzone, per me, le note stanno nell'aria. Cioè, scoprire 3 note che messe insieme sono un motivo di successo, un motivo che cantano tutti, è veramente una scoperta che io non so perché, se no a questo punto avrei fatto altre canzoni, molte di più, no? Se uno avesse scoperto come si può fare una canzone. Modugno, l'avete sentito, ha sempre amato la poesia, ha messo in musica i versi di Quasimodo, di Pasolini e dei Cantastorie del Sud. La sua ispirazione nasce dalla realtà e dalla memoria, dalla cronaca e dai sogni, e persino dalle pagine del diario segreto di una giovane attrice, di Enrica Bonaccorti. Questo è il suo ricordo, è quello di Renzo Arbore. La lontananza è nata in un modo magico. Quando avevo 14 anni mi innamorai per la prima volta e insomma questo amore non mi è quasi mai finito. E dato che dovevo lasciare questa isola meravigliosa che è la Sardegna, in cui ho vissuto per 3 anni in quella stagione, ecco, la persona di cui ero innamorata, trovando il mio diario dimenticato in un club di tennis dove si andava, lo lesse, capì tutto e mi lasciò delle parole su una lettera, proprio una lettera molto bella che io ricordo praticamente a memoria, e parlava della lontananza alla fine. Ecco, insomma, da quelle parole poi e da altre, così Mimmo disse, ecco, è questa l'idea, la lontananza è l'idea, perché c'erano già altre parole su quella musica. Dicevano, vieni a vedere quanto è bello il mondo, Non erano male, ma erano un po' più banali, non c'era un'idea forte. Mimmo, quando lesse quelle parole mie, impazzì, mi ricordo che proprio disse: scrivi, scrivi, scrivi tutto quello che ti ricordi, scrivi. E infatti io scrissi, dico: intanto comincio, e scrissi. Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano, chissà dove. Io avevo paura. E ecco, tutto il parlato della lontananza iniziale è quello che io scrissi la sera stessa. E ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento. Spegni i fuochi piccoli, ma accende quelli grandi. La lontananza, sai, è come il vento. Selene Ene, si parlava del 2000 come se avremmo potuto volare, eccetera, e quindi era fantastico. Selene Ene, ah, come è bello stare qua. Selene Ene, ah, con un salto arrivo la Selene Ene, ah, è un mistero, non si sa. Il vecchietto dove lo metto è anche una canzone carina. Forse possiamo un po' scherzare su Piangi il telefono, che è, insomma, è una canzone un po' particolare. Poi ce ne sono quelle meno famose, A signora affianca a me, per esempio, che era una seconda edizione di Io, mamma, te, tu. E poi ha scritto anche un brano bellissimo che si chiamava Terra mia, amara terra mia, che è un brano appunto dove si sente la melopea pugliese, che è poca ma c'è. Amara terra mia è un'altra storia magica. Sole alla valle, sole alla collina. In partenza si chiamava Sardegna terra mia, e amara terra mia era proprio sempre per questa terra che lasciavo. Com'è nata? È nata anche lì sul mio diario, questa volta dei 17 anni, e l'ho fatta, le parole, prima, sulla musica di De André. Perché dato che io sono negata per la musica, ho molta musicalità dentro, ma non lo so, non posso mettere le mani su un piano, non so suonare la chitarra. E Sardegna terra mia veniva addirittura da Amore che vieni, amore che vai. Sardegna, mia terra, dai cieli infiniti. Era questa, no? Anche quella la vide Modugno e gli piacque molto, perché lui aveva già catturato nella storia popolare della canzone questa frase, sia di parole che di musica, che è centrale, che è quell'addio, addio, amore, che è di una vecchia ballata, credo, calabrese. Addio, addio, amore. Ho visto tanti Mimmo Modugno di successo, li ho visti nelle tournée trionfali in Sud America, l'ho visto negli spettacoli per gli italiani negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, però io credo che lui si esaltasse di più in teatro. Lui è nato per essere attore di teatro, cantante in teatro, eccetera. Avete sentito Adriano Ragozzini, e infatti per l'artista ci sarà sempre la passione del palcoscenico, e Modugno si rivelerà un attore straordinario, versatile e appassionato. Dal teatro al cinema, dalla commedia musicale alla prosa, al dramma e alla televisione, Scaramouche, Rinaldo in campo, l'opera da tre soldi, Cyrano, da Edoardo a Pasolini, da Strehler a Garinei e Giovannini, così il ricordo di Renzo Arbore e le parole di Domenico Modugno. Certamente lui aveva una presenza scenica straordinaria, una vitalità, un'energia che veniva fuori, e una naturalezza nel recitare. È stato un protagonista del teatro italiano, assolutamente. Quando uno canta si libera, no? Esce fuori. Quando uno recita esce dal suo personaggio, quindi entra in un altro, ed è una gioia veramente. A 26 anni dalla prima rappresentazione, un caloroso successo ha accolto a Palermo la nuova edizione di Rinaldo in campo, la fortunata commedia musicale di Garinei e Giovannini, riproposta in prima nazionale dal Teatro Stabile Biondo di Palermo. Le musiche di Mimmo Modugno, i testi sempre scintillanti, le coreografie di Franco Miseria e soprattutto la convincente interpretazione di un efficace e credibile Massimo Ranieri hanno tenuto brillantemente la scena strappando gli applausi. Così lo ricorda Massimo Ranieri. Una sola cosa mi disse Garinei il primo giorno di prove. Tu sai che insomma noi tentiamo di avere anche un qualche cosina dell'altro o del personaggio, voglio dire, per sentirtelo già addosso, una sciarpa, una cravatta, una cosa. Lui il primo giorno di prove, io dissi: Piero, ma non c'è qualche cosa di sartoria, non so, anche una pistola, una cosa, lo metto addosso alla mia tuta, almeno già mi sento brigante, non so come spiegare. E lui mi disse, chiamò la sarta di palcoscenico, dice: Mario, vengo qui, porti quello. Mi diede il gilet di pelle, dice: questo è di Mimmo. E c'era un piccolo sbreco qui, sul taschino, cucito a mano. Dice: questo è quello che lui usava durante le recite. È stata una cosa commovente. Come un eco lui mi diceva: tienilo, perché ti appartiene, perché sei uno dei nostri, non so come spiegare. C'è una canzone che era, per me era la sera, come dire, veramente toccante. Era: che notte chiara chiara, che luna tramontare, un grillo canta canta, ai ai ai ai, ringrazia Dio, signori, e inevitabilmente andavo ad imitarlo. Ringrazia te, signori, e chi mi lassi vivrà così. Mi disse solo una cosa molto tenera, perché io saltai giù dal palco, non feci neanche il giro dei camerini, saltai proprio giù per la gioia di abbracciarlo e per ringraziarlo per quest'opera meravigliosa che ci ha lasciato. E gli presi la mano e gli dissi: Mimmo, vieni su. No, non mi fare venire su, non mi fare, specie di pudore, con grande dolore, come un leone ferito. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Quella che raccontiamo oggi è la storia di un indimenticabile artista, Domenico Modugno, che dopo il marzo dell'84 è un leone ferito. Un ictus, infatti, lo colpisce all'improvviso. Modugno si sente male negli studi di Mediaset dove sta registrando la trasmissione La Luna nel Pozzo. Ha 56 anni e nel pieno delle sue forze, e l'esperienza televisiva potrebbe essere un'ennesima iniezione di giovinezza. E invece quella malattia non gliene darà l'opportunità. A volerlo in quel programma era stato proprio lo stesso Silvio Berlusconi, così la testimonianza del manager Adriano Ragozzini e della moglie Franca Gandolfi. Io feci il contratto con la Mediaset per fare La Luna nel Pozzo, eccetera. Era una cosa nuova questa televisione, ecco, un'esperienza, anche se tutti, io proprio gli sconsigliavo assolutamente. Tutti glielo sconsigliavano, però l'hanno convinto, insomma. Diciamo che il padrone è venuto direttamente qui, perché lui aveva già detto no. Invece si è presentato alle 11 di sera, senza neanche aver cenato. Io telefonavo, stavo dall'altra parte, dicevo: non lo fare, Mimmo, non lo fare, non lo fare, Mimmo, non lo fare. Pare che me lo sentiva e l'ha convinto. I primi periodi Mediaset era ancora disorganizzata, per registrare 5 minuti ci mettevano 24 ore, si andavano lì alle 2, si cominciava a registrare alle 7, eccetera. E questa è una cosa che lui subiva molto. Domenico Modugno è stato ricoverato in sala di eliminazione al reparto neurochirurgico dell'ospedale milanese di Niguarda. È stato colpito, come dice un comunicato, da una trombosi della carotide destra. La prognosi è riservata. Quando ebbe il malore, io lo seppi subito, però mi dissero che non c'era problema, che non l'avevano neanche portato all'ospedale, che il medico aveva detto che non c'era nulla di grave, e quindi io non pensavo fosse il solito malore, stanchezza, attesa, eccetera. No, veramente io non l'ho saputo da Milano, l'ho saputo, lui mi ha telefonato all'alba dicendo: Franca, mi sento male. Nessuno mi ha avvertito che Modugno stava male, nessuno. Stava male e sbarellava e vedeva doppio, poi si riallargava e lui stava bene. E loro facevano, quando stava male, fermavano la macchina, appena stava meglio, glielo mettevano sulle pie e continuavano. Una cosa, guarda. da non credersi. Hanno chiamato un medico, perché c'era un medico lì a Canale 5, e questo ha detto: Motugno, forse una stanchezza, quando prenda un'aspirina vuole dello zucchero, dell'acqua zuccherata. Purtroppo il medico di Canale 5 non era un medico, era un grande ignorante, perché io gli detti tutti i sintomi dell'ictus, ci vedevo doppio, inciampavo, mi girava un po' la testa, e quindi io stavo male. Anziché fermare la trasmissione, il medico, e mandarmi in ospedale, disse che potevo lavorare. Se mi avessero ricoverato subito, io adesso starei perfettamente guarito, potrei suonare la chitarra con la mia mano, e invece sono stato dimenticato in un camerino. Quello che gli è successo è così, che lui dice: tu non sei la tragedia, perché dentro sono rimasto svelto e fuori o come se avessi, diceva, i cani legati che mi mordono dietro e mi trattengono le gambe. C'è una sensazione orribile, dentro svelto e fuori tutto lento. Io mi ricordo quando siamo andati in Svizzera, e quando siamo usciti per la prima volta con la carrozzella, c'era tutta una strada in discesa, e lui mi diceva sempre: lasciami andare, buttami giù. A me questa cosa proprio... insomma, sembrava un po' pazzo diventato. A poco a poco si è appassionato, ha ricominciato a riassaporare, che gli era rimasto molto poco, però quel poco che gli era rimasto, la vita era bella, ed era già una fortuna avere quel poco che gli era rimasto e continuare a vivere, ecco. Poi c'è stato il ciclone di Pannella, e quindi... Eccolo, la prima volta che canta dopo la malattia. Ed è un congresso favoloso, novembre, il 2 e 3 novembre, adesso 86-87. Siamo lì, e a questo congresso c'è Mimmo. Abbiamo delle foto in cui c'è anche Enzo Tortora dietro con lui, ma Mimmo in questa occasione risuona, ricanta, e non lo aveva mai fatto in pubblico, e diceva anche a casa, così un po' di rado. Avete sentito Marco Pannella? Lui e il Partito Radicale irrompono nella storia pubblica e privata del più grande interprete della canzone italiana. È il 1987, i radicali sono in difficoltà e cercano candidati illustri. Se con Enzo Tortora si impegnano per la battaglia per la giustizia, a Modugno invece chiedono una testimonianza per i diritti dei malati, e lui, Mimmo, decide di combattere anche questa nuova battaglia, così il ricordo di Marco Pannella. Tutti gli avevano proposto di candidarlo da sempre, da tutte le parti, i partitoni. Da noi non sapevamo mai se eravamo eletti, lui, io, chiunque fosse. E appunto Mimmo scelse con Franca, che era sempre accanto, devo dire, volevo proprio ringraziarla ancora, perché dico, lui ricostruisce la sua integrità del fisico, dell'esprimersi, del cantare, dell'apprendere anche i momenti parlamentari nei quali era assolutamente ligio. Ecco, nella cronaca di questa giornata lunga qui al Quirinale, molto impegnativa per il Capo dello Stato, una singolarità: la presenza di Mimmo Modugno con la delegazione radicale in qualità di uno dei presidenti del partito. Modugno, ma per uno che ha fatto il cantante e ora fa il politico, che sensazione prova? È la stessa cosa, guardi. Cioè, si può cantare e far politica? Certo, perché no? È sempre spettacolo, perché no? La politica è spettacolo, ma c'è anche la politica nostra. Sì, lo so, però sono molto vicini, sia l'uno che l'altro. Bisogna avere fantasia e poesia, anche nella politica. E conosco molti politici che l'hanno, forse più degli artisti. Siccome è stato presidente del Partito Radicale, deputato radicale, è sceso su di lui, semplicemente come con Enzo Tortora, come con Leonardo Sciascia, come con Pierpaolo Pasolini, come con Elio Vittorini, si sono vendicati, non sono riusciti ad impedire questo essere, questo manifestarsi per la forza contro il potere. no? Per la creatività, per la felicità e il dolore, come fatti non fatti di conflittualità, di amarezze, no. Come ha fatto sempre, Modugno si mette in gioco con passione e il suo impegno a favore delle battaglie radicali è totale. Diventa un paladino dei diritti civili e per sostenere i malati dell'ospedale psichiatrico di Agrigento accetta addirittura di tornare sul palcoscenico. Poi un ultimo concerto alle Terme di Caracalla a Roma e infine a New York. Ma quello di Modugno ormai è solo un lungo addio alle scene. Il suo rifugio preferito adesso sono il mare e il silenzio dell'isola di Lampedusa. Ed è proprio lì che il 6 agosto del 94 il grande e indomabile combattente si arrende, così il ricordo della moglie e degli amici. È morto Domenico Modugno, un infarto lo ha stroncato nella sua villa di Lampedusa. Padre di generazioni di cantautori, una delle massime espressioni della canzone italiana del dopoguerra. La sua ultima giornata è stata una giornata per lui bellissima. E era venuta la tramontana, il mare si era tutto allisciato come piaceva a lui, si è fatto un bagno di 3 ore, poi felice e contento dice sto dentro a un mare di velluto, dice ma dove lo trovi un mare così mi faceva, lui adorava Lampedusa, ma dove lo trovi, vedi che mare splendido. E stava benissimo, poi però... si è ripreso, ma appena si è rialzato dalla sedia, niente, è stata una cosa devastante, è cascato però su un prato verde che aveva anni fa piantato lui, davanti all'isola dei conigli che lui amava, con gli occhi aperti nel cielo, per cui penso che abbia fatto una morte che a lui sarebbe piaciuto fare. Ero deluso che ci avesse lasciato. Lo aspettavamo. Addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. E io dico che una persona muore quando tutto se lo sono dimenticato, fin quando vive nella memoria delle persone, e fino adesso lui sta ancora nella memoria delle persone, anzi mi dicono che più passerà il tempo e più lo scopriranno, perché di Mimmo si conosce poco. La la la la, la la la la, la la la. Un ringraziamento ad Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonani, il mitico Manuel Guerrini in redazione. Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Buon fine settimana.